Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. L'esperienza insegna che ci sono certe sconfitte che aiutano a crescere più di certe vittorie. Credo sia l'ottica giusta per valutare lo 0-1 di ieri sera contro l'Uruguay, semifinalista mondiale l'estate scorsa in Sudafrica e quest'estate vincitrice della Coppa America, quindi del trofeo, del miglior squadra del Sud America. Ma credo anche che la notizia del giorno, ovviamente nel nostro ambito, sia la dura, anzi durissima reprimenda che il presidente del CONI, Gianni Petrucci, ha riservato stamane ai ricorsi extraterritoriali, nel senso di al di fuori del territorio sportivo, di alcune società, in particolare è inutile girarci intorno, della Juventus. Sentiamo la prima parte dell'intervento di Petrucci. Vedete tante volte i presidenti che dicono i soldi sono i nostri, le regole devono cambiare. No, cari presidenti, i soldi saranno i vostri, ma le regole le fa lo sport italiano, le fa lo Stato, le fa la legge, le fa la Federcalcio. Noi vogliamo tutelare i vostri investimenti, cari presidenti, ma voi li state distruggendo. La federazione sta lavorando seriamente. Il calcio è fatto da 15.000 società, non esiste solo il calcio di vertice. Ma lo sappiate, presidenti, le regole le fa il CONI, non le cambierete voi. Ma insomma, credo che più chiaro di così sia difficile. È difficile anche sentire un toni di questo genere da parte di un personaggio sempre abbastanza flautato nei suoi interventi come il presidente del CONI Gianni Petrucci. Il destinatario era talmente chiaro, nonostante il generico termine di presidenti, era talmente chiaro che il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha già convocato una conferenza stampa per questo pomeriggio alle 17.30. Torniamo all'Olimpico di ieri sera, perché intanto credo che sia giusto un omaggio a Tavares. È stato il CT uruguaiano, sapete che ha avuto una serie di disavventure calcistiche italiane, quella di ieri sera per lui è stata certamente una bella rivincita, una ciliegina su una torta, ripeto, di un anno che gli ha portati a vincere la Coppa America dopo già gli eccellenti risultati al Mondiale lo scorso anno. Oscar Washington Tavares. È stata una partita molto difficile per trovare gli spazi, la predominanza dei settori difensivi, poco spazio al centrocampo. Noi in difesa vogliamo giocare una partita così, forse in attacco non abbiamo fatto quello che si può aspettare. È il significato di questa partita importantissimo per noi, finisce un anno sportivo meraviglioso per noi. E tutto si deve fare d'accordo alla categoria e alla storia del rivale. E abbiamo vinto in casa all'Italia, per noi è molto importante. Perché è importante la lezione di ieri sera? Ma perché appunto contro una squadra che oggi è certamente tra le migliori del mondo, ma che da sempre è un avversario difficile da affrontare, perché il loro modo chiuso che hanno di giocare per quel calcio, non dico sporco, ma insomma comunque quel calcio sempre sul limite dei nervi, no? che loro usano e che usano soprattutto nelle fasi più delicate della partita. Poi per la verità il fallo più brutto l'ha fatto Chiellini alla fine su Cavani, e lì era difficile, non era facile capire se era una un brutto intervento figlio di una partita che poi amichevole è stata, sì, ma molto sino ad un certo punto, oppure se era già un'anteprima invece di Napoli-Juve, no? Perché qualcuno l'ha letta anche in questa che ha fatto sta che Cavani ha rischiato, ma insomma si è fortunatamente per lui rialzato. Non si è rialzato invece Burdisso in Colombia-Argentina, la selezione, cioè l'Argentina ha vinto 2-1 fuori casa con gol di Messi e di Agüero dopo essere andata in svantaggio, però il problema è che Burdisso è saltato in pratica un ginocchio, perché era un contrasto di gioco, rottura del legamento crociato di un ginocchio con sospetta frattura del piatto tibiale. Morale, per lui la stagione è certamente già finita, ed è una pessima notizia sia per Burdisso questa che per la Roma. Sono brutte anche le notizie che arrivano da Livorno, perché è stato ricoverato stamane per un malore Aldo Agroppi, ex calciatore, lui ha 67 anni, quindi parliamo degli anni 60-70, e poi a lungo commentatore televisivo, a quanto pare si tratta di un infarto ed è stato ricoverato all'ospedale di Livorno, dove pare verrà sottoposto in breve a un intervento di angioplastica. Tra poco ampliamo il discorso calcistico europeo, andando innanzitutto a Dublino, dove si è celebrato il trionfo di Giovanni Trapattoni e del suo vice Marco Tardelli, e poi più avanti torneremo al clou di giornata, che, ripeto, è questo duro intervento di Petrucci sulla situazione del calcio italiano, sul doping legale, così addirittura lo ha definito ad un certo punto. Collegamento con Sky Sport 24 e con Fabio Tavelli. Buongiorno Fabio. Buongiorno Gigi, buongiorno a tutti. So che devi rientrare presto in onda. E allora, direi di partire da Giovanni Trapattoni, perché la sua è insieme un'impresa e anche una rivincita rispetto, direi, a quel Francia-Irlanda 2 anni fa. Come no, era stato buttato fuori, diciamo, con l'inganno, anche con un po' di truffa e anche con qualche risolino, devo dire... sinceramente fuori luogo, no? Di chi diceva vabbè, ma insomma tutto sommato che cosa vuoi, è importante che passi la Francia, poi insomma abbiamo visto la Francia com'è andata, e credo davvero sia un grande premio. Io poi ho avuto il piacere di parlare quarto d'ora 20 minuti fa con Renzo Olivieri di questa cosa, no? Del fatto che ci saranno 3 allenatori italiani, come no? Trapattoni, Prandelli e Fabio Capello, c'è un allenatore italiano che guida la Premier League. Mi sembra un grande momento per gli allenatori italiani, per Trapattoni. Io credo che questa vada davvero misurata come una dei suoi più grandi successi. Lui ha vinto tanto con le nazionali, con la nazionale italiana non ha avuto fortuna, anzi è andato sostanzialmente molto male, sia al mondiale in Giappone e Corea che poi all'Europeo in Portogallo, e quindi è una rivincita che credo lui si meriti, al di là del fatto poi che ha davvero esondato con la sua simpatia ed è un idolo assoluto, al punto che c'è qualcuno che ha deciso di chiamare il figlio Giovanni, che trovo una cosa fantastica. Dato sì. Giovanni mi sembra un nome anche ben adattabile anche a cognomi stranieri, e quindi è molto bello. Insomma, sì. Credo che chiunque oggi possa dirsi anche contento per lui. Certo, io più tardi ho una lunga mail da leggere che arriva dall'Irlanda, è firmata Davide Botta, è un italiano che vive lassù e che spesso scrive, corrisponde e testimonia e racconta. Il racconto di oggi è proprio carino, più tardi. Dunque, sul resto del fronte europeo mi pare che insomma, il meglio l'abbia fatto il Portogallo, direi. Sì, devo dirti che il Portogallo ha fatto molto all'andata, secondo me, perché impattare all'andata contro una squadra che poteva schierare Pjanic, poteva schierare Ibisevic e Dzeko tutti e tre insieme, è già stato un bellissimo risultato. Poi ieri ha fatto il pieno, è arrivata anche la goleada, e quindi direi bene, perché comunque è importante che ci sia la nazionale di Cristiano Ronaldo. Cioè, è importante che Cristiano Ronaldo ci sia. Certo. Queste sono nazionali che hanno i loro cicli. Il Portogallo ha fatto tanto bene a livello di coppe europee in quest'ultimo periodo, però è evidente che non può pensare di vincere un europeo se c'è soltanto Cristiano Ronaldo. Il Portogallo risulta essere una delle squadre pericolose per la nazionale di Prandelli nel caso in cui venisse sorteggiata, perché ovviamente adesso l'attenzione è su queste 4 fasce, queste 4 urne. Esatto, che adesso leggo, su cui volevo sentire la tua opinione. Sì. Allora, prima fascia, cioè è chiaro che i gironi si fanno pescando una squadra da ciascuna di queste 4 fasce. Prima fascia, Polonia e Ucraina come paesi ospitanti, Spagna e Olanda. Seconda fascia, Italia, Germania, Inghilterra, Russia. Terza, Croazia, Grecia, Portogallo, Svezia. Quarta, Francia, Danimarca, Irlanda e Repubblica Ceca. Siamo in ragionevole equità o c'è, al di là dei paesi ospitanti, ma quella è una vecchia tassa da pagare, no? Sì, però Gigi, diciamo, almeno io non so come tu la pensi su questo, da questo punto di vista, è una vecchia tassa da pagare, però io penso che mai come questa volta sia ora di smetterla, nel senso che io ricordo in Corea e Giappone Mondiale 2002 inseriti in una prima fascia e per carità poi la Corea andò molto avanti e sappiamo anche come, il Giappone fece solo gli ottavi, il Sudafrica fece testa di serie, ovviamente urna numero 1 e non andò agli ottavi. quando i gruppi sono così pochi, perché questo qua, in questo momento stiamo parlando di 16 squadre, ecco, concedere la stessa urna a Polonia e Ucraina e Olanda Spagna, io trovo che sia un non senso. Cioè, certo. Gli europei vanno a Polonia e Ucraina e va bene, andrà certo. Ovviamente la partita inaugurale a uno stato, la partita finale a un altro, secondo me lì ci si potrebbe anche fermare, cioè nel momento in cui ci sono due paesi che ospitano gli europei è già questo, boh, vabbè, lo accettiamo, ma quando sono nazioni calcisticamente così povere, cioè, Polonia e Ucraina stanno in quarta fascia, no? Sinceramente certo. Il loro coefficiente è la quarta fascia, stanno non è possibile fascia. Che la seconda fascia sia più forte della prima, perché per carità Spagna e Olanda sono fantastiche, ma nel gruppo 2 ci sono Italia, Germania e la Germania vista ieri sera fa non paura, paurissima, e Inghilterra che comunque è sempre Inghilterra, cioè, poi è vero, anche la Russia. È vero, perché ieri sera la Germania ha rifiutato 3 all'Olanda, che non è una Germania cosina. Germania fa paura, francamente fa paura. Oh, e allora, visto che la Germania fa paura, mi pare che proprio in Germania e forse anche in Spagna ricominci da sabato in avanti, ormai sarà una grande volata ininterrotta fino a Natale, ricomincino i campionati con degli appuntamenti, mi pare, di primo livello. Beh, in Germania sicuro si gioca sabato alle 18:30 Bayern di Monaco Borussia Dortmund, cioè prima contro seconda, si gioca in casa del Bayern di Monaco, il Bayern ha 5 punti di vantaggio, diciamo che vincendo il Bayern di Monaco un discreto colpetto alla Bundesliga glielo potrebbe assestare, per carità non è proprio una partita così facile, intendiamoci, però non è un match point, ma diciamo che vorrebbe dire essere 2-7-0 in una partita 3-7-5. Sì, sì. Altro grande match secondo me è Valencia contro Real Madrid, parliamo di prima contro terza, parliamo del campionato spagnolo, la partita si gioca sabato alle 22, ovviamente martedì e mercoledì torna la Champions League e siamo in una fase molto molto delicata, quindi tutte ovviamente chiedono e ottengono anticipo al sabato, il Barcellona gioca contro il Saragozza alle 20, c'è anche Villarreal Betis alle 18, ma qui siamo al sotto clou. Valencia è una squadra, è un discreto test, anche perché comincia ad avvicinarsi il classico sabato 10 dicembre, ore 22, tra Real Madrid e Barcellona, il match. E quindi ci hai già anche anticipato il clou di questa full immersion, ripeto, da qui a 3 giorni prima di Natale. Grazie Fabio, guarda a che voi, ti stanno, secondo me ti stanno aspettando in conduzione. Ciao. Grazie davvero. Dicevo di questa mail, chiedo un attimo ancora di pazienza a due ascoltatori già collegati da Pesaro e da Prato, scrive Davide Botta, che ripeto è un italiano che attualmente vive e lavora a Dublino, dice finalmente gatto nel sacco, la festa è cominciata, le giuro che vedere i giocatori irlandesi con gli occhi lucidi fare il giro del campo insieme al vecchio Trapattoni è stata una piccola gioia, mentre sullo schermo dello stadio c'era un disegno in stile cartoon di un gatto che allunga il collo fuori dal sacco. Bisogna ammettere che la sorte ha restituito in parte ciò che tolse in quella partita con la Francia, è vero che l'Estonia si è rivelato un avversario davvero misero per questi livelli, ma questo non può sminuire il lavoro di Trapattoni e Tardelli, secondo me, scrive questo ascoltatore, uno dei migliori risultati mai raggiunti da un tecnico italiano all'estero. E qui una brevissima ricostruzione che mi sembra ci stia. Trapattoni e Tardelli hanno preso in mano una squadra che era una cozzaglia di giocatori allo sbando, sconfitta 5-0 a Cipro, pensate a Cipro, alle qualificazioni per Euro 2008, il punto più basso. Da allora sono riusciti a poco a infondere fiducia, solidità, un gruppo di giocatori tecnicamente mediocri, perché per il bel calcio si prega di rivolgersi altrove, ma se si vuol vedere una squadra in cui tutti si aiutano e tutti danno l'anima per sopperire allo scarso talento, ecco allora l'Irlanda del Trap, tra l'altro specchio fedele di un popolo che ha sempre dovuto lottare. Mi sembra molto bella questa sintesi e ringrazio questo ascoltatore. Saverio ha chiamato da Pesaro, buongiorno. Buon pomeriggio Garanzini. Dica. Volevo un suo giudizio sulla partita di ieri dell'Italia, perché secondo me come è strutturata questa squadra andrebbe bene più per un campionato tipo la Serie A sulla lunga e non ad affrontare partita su partita un campionato tipo quello europeo o addirittura mondiale, che sono 7-8 partite secche e tocca dare l'anima in mezzo al campo. Secondo me, secondo il mio modesto parere, non è attrezzata in questo modo la squadra. La ringrazio. Attrezzata per essere competitiva invece secondo me lo è, non dimentichiamo, ripeto, che quello di ieri sera è uno dei test più difficili che oggi ti possono toccare in giro per il mondo. L'Uruguay è una squadra storicamente fortissima sul piano difensivo del controgioco, adesso ha qualche risorsa in più in attacco, anche se poi ieri mancavano i due attaccanti più forti, insomma, quelli che in questi anni Suarez e Forlan hanno firmato i risultati principali. Secondo me è una signora squadra, ripeto, è meglio una partita finita male come quella di ieri come test di crescita che non altre amichevoli che magari vinci o stravinci e ti fanno illudere. Marco Prato, buongiorno. Buongiorno, io prima di tutto vorrei fare i complimenti al Trap, perché sì, certo. se li merita. Seconda cosa, volevo dire dell'uscita di Petrucci, che secondo me ha ragione, però le cose andrebbero fatte risalire un pochino più indietro, non solo a quello di cui stiamo parlando oggi. So che lei non è d'accordo, però io devo dire che è dal 2006 che stiamo subendo delle cose che non vanno bene, che non sono eticamente corrette, e continuiamo così, e finché non avremo una federazione forte che si esprima decisamente in un senso o nell'altro, e purtroppo le cose andranno avanti così. A me pare che la federazione si fosse espressa in un senso molto chiaro nel 2006 e tra l'altro a tempi di record, e da allora quella pratica l'ha considerata chiusa, perché per la giustizia sportiva questa storia era chiusa. Poi può essere giusto o sbagliato, può piacere o meno, però dal punto di vista della giustizia sportiva i tempi sono implacabili, o non sono, cioè, o se no non è giustizia sportiva, è un'altra che è la giustizia ordinaria, che avrà tutti altri tempi. Poi sull'opportunità o meno di rivolgersi alla giustizia ordinaria, questo è il senso, secondo me, sacrosanto dell'intervento di stamane di Petrucci. Ma ascolteremo altri frammenti più tardi e ne riparleremo dopo aver ascoltato come stanno andando i mercati, come stanno reagendo magari anche alla compilazione della lista del nuovo governo. Sentiamo che cos'altro ha detto in questa conferenza stampa che ha già fatto e continuerà a fare molto rumore stamane il presidente del CONI, Petrucci. Io non ci sto, non ci posso stare a tutto quello che sta accadendo nel mondo del calcio di vertice. Basta, basta, non se ne può più. Cioè oggi le pagine dei giornali sono più piene di aspetti giuridici, legali, aspetti sportivi, calcistici. Oggi il calcio di vertice è malato di doping legale, doping legale. Cioè, se voi vi renderete conto, perché siete attenti osservatori, quello che sta accadendo, assenza di mancanza di rispetto, assenza di etica, di rispetto delle regole. Oggi chi grida di più pensa di vincere, ma non vincerà finché c'è questa struttura, finché lo sport italiano è così solido come è, e lo stiamo dimostrando ogni giorno, non prevarranno i prepotenti, gli arroganti. Però doping legale è un'espressione molto forte, veramente molto forte, quella usata da Petrucci. Tommaso ha chiamato da Milano, buongiorno. Buongiorno, senta, io invece volevo scontrarmi, diciamo, col quarto detto il presidente del CONI, che secondo me fa proprio parte di quella, tra virgolette, vecchia nomenclatura sportiva che imbriglia lo sport italiano, quindi ha poco da ergersi a moralizzatore. Io sono sostenitore della politica che sta facendo il presidente della Juventus, Agnelli, non da ultras o tifoso sfegatato, ma semplicemente per una questione di equità e di giustizia, perché quello che è successo con Calciopoli, secondo me, la solita soluzione all'italiana del capro espiatorio, che poi non risolve i problemi né dello sport né di altre situazioni, ha portato a cancellare la storia di una società di 100 passanni in 7 giorni di processo, senza neanche dare il tempo di preparare una difesa seria, sbattendolo in Serie B a qualcuno che voleva anche sbatterlo in Serie C. Una società come la Juventus, che ripeto, quantomeno un doveroso rispetto per essere la squadra che, come diceva l'avvocato Chiusano, con pianto, perché probabilmente se fosse stato vivente con Calciopoli le cose sarebbero andate diversamente, che unisce veramente l'Italia da nord a sud, dalla destra a sinistra, nobiltà sabauda, come diceva lui, e operai della Fiat. In 7 giorni si è cancellato tutto questo, quando poi oggi abbiamo visto che le cose erano diverse, che è un sistema differente, perché nessuno sta difendendo Moggi o altro. Ma eppure, mi scusi, ma nemmeno un tribunale civile ha ritenuto che questo cambiasse. È stato il primo grado di giudizio, quando come si suol dire, un po' all'italiana, no? Quindi quando si spara alto il primo giro, ascolti Tommaso, un po' l'italiano, un po' la sabauda, non è facilissimo orientarsi in questo genere di geografie. Io so soltanto che la strategia di oggi è esattamente quella contraria a quella che la Juventus adottò allora, cioè a quella di riconoscere le colpe, ad escludere ricorsi al TAR e ad escludere ricorsi extragiudiziari proprio per ottenere una pena inferiore rispetto a quella che allora si profilava. Strategia a cui peraltro si adattarono e anche altre società, anche le altre società coinvolte. Allora qui forse ne mancava uno, è qui che vuole arrivare lei, ma qui arriviamo sempre tutti, d'accordo, ma in questo caso però non cambia niente che ce ne fosse una più o una meno. Io tornerei da Petrucci, perché sinceramente con tutto il rispetto per l'opinione degli ascoltatori, queste opinioni, questi discorsi li sentiamo da 5 anni e mezzo. Io invece parole dure e definitive come quelle di stamane del Presidente del CONI non le avevo ancora sentite, per cui un'altra parte ancora. E noi porremo delle regole che bloccheranno questa arroganza. Abbiamo interpellato degli insigni professori ai quali non si può misconoscere la conoscenza del diritto, e che io vado anche a leggere, e noi nel più breve tempo possibile cercheremo di difenderci da questa aggressione. Se serve la linea interna del CONI, se serve la linea interna della legge, sapendo però che con tutti i problemi che ha il Paese è anche umiliante che noi andiamo a chiedere in questo momento delicato una difesa del nostro mondo, perché una parte del nostro mondo non si sa difendere da solo. Che anche questo è un altro passaggio discretamente significativo. Credo che in parte toccherà anche al neo ministro dello sport occuparsi di una vicenda come questa. Abbiamo appena sentito che in quella carica neo ministro del turismo e dello sport e spettacolo del governo Monti è Piero Gnudi, laureato in economia e commercio, leggo dalla scheda appena pubblicata dall'ANSA, nel 62 presso l'Università di Bologna e da allora con un cursus honorum di quelli da persino imbarazzanti. Gianluca ha chiamato da Venezia, buongiorno. Buongiorno. Io volevo intervenire in merito all'esternazione del Presidente del CONI, che mi fa piacere sentire ora che si ponga in modo deciso e fermo, però ciò che rammarica di più è che nei cittadini normali come me che frequentano il bar, il giudizio che passa è l'assoluta inadeguatezza e incertezza di regole che prevalgono nel mondo dello sport, e quindi sono attaccabili una volta dalla Juventus o chi alza la voce come presidente del Napoli in certi casi sui calendari. Tutto è attaccabile. Questo deriva, secondo me, qui chiedo un consiglio oppure un giudizio, dalla debolezza delle regole sportive e istituzionali, fin tanto che adesso Petrucci dice ci adegueremo, no? Io non credo a questo, io credo che dipenda dal tasso di litigiosità e di mancanza di rispetto delle regole che ormai ha travolto tutti i mondi, no? A cominciare, come sappiamo, da quello della politica e da quello della finanza, e quindi figuriamoci se arrivava anche nel calcio. Dopodiché quello che lei pone in termini di contestazione, rivolta o in qualche caso non è null'altro che normale dialettica e normale disparità di punti di vista, come giusto che sia, come inevitabile. Certo che a proposito di benzina sul fuoco, carino questo SMS che Roberto Mancini ha mandato da Londra a Gianni Petrucci. Ho ascoltato il suo discorso di oggi e faccio i complimenti a lei e anche al presidente della FIGC Giancarlo Abete. Sentiamo ancora un altro pezzo, credo, perché sì, questa è l'ultima parte, no, non di questo intervento, non della totalità di questo fluviale intervento mattutino, ma è l'ultima parte ancora molto significativa. Ma il presidente del CONI non ha la forza del decreto di dire se è giusto o sbagliato uno scudetto. Il presidente del CONI ha il diritto dovere di fare rispettare le regole. Le regole sono state rispettate, ci sono sentenze, ci sono delibere, ci sono decisioni che dicono questo. Per me il discorso è chiuso. Chi lo vuole aprire lo riapra, ma sappia che ricreerà ancora problemi alla serenità del calcio italiano. Oggi si vive anche di credibilità, oggi si vive anche di curriculum, di quello che hai fatto fino a ieri. Marco, chiamato da Bergamo, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Niente, io non ritengo giusta la sua posizione di coinvolgere anche il ministro dello sport rispetto alla questione che ha sollevato Petrucci. Ma se mi scusi, ma si immagini se io mi permetto di coinvolgere il ministro dello sport? Ho solo ricordato che c'è anche un nuovo ministro dello sport e che magari si dovrà occupare pure di queste porcherie, ma non gliel'auguro. Lei, visto che da cittadino italiano, come sono io e anche lei, ha detto che lo Stato ha altri pensieri e altre cose di cui occuparsi, speriamo che non si occupi di questa cosa, ma di ben altro. Ma pensiamo alla stessa maniera, mi crede. Bene, allora, mi fa piacere anche perché l'ho sempre stimata, altrimenti però se lei si schiera sempre con i più forti, abbia il coraggio di dirlo, se non accetta le critiche, pazienza, io gliele faccio lo stesso, perché stare con Petrucci in questo momento fa comodo dire che ha rispettato le regole. Vogliamo non parlare più di questo argomento, come lei o Petrucci state chiedendo di fare. Mi dispiace, signori, bisogna parlarne. Come lei ha detto, qualcuno è rimasto fuori, questo qualcuno deve essere ricoinvolto. In merito, e chiudo, alla strategia che lei ha detto della Juventus, la strategia della Juventus è stata così perché doveva minimizzare in quel momento una valanga che gli arrivava da tutta Italia. Dulce Lüge. Allora, un cugino minimizza e poi quando poi l'altro cugino dopo un po' decide che la strategia cambia, quando nel frattempo all'inizio era minimizzare. Io credo che prima o poi bisognerà metterci una pietra su questa storia, no? Perché credo che in questo ha certamente ragione Petrucci. Questo fa semplicemente del male a tutto il movimento intero, e secondo me a cominciare proprio dalla Juventus, perché questo è un discorso già vecchio di anni, questo. L'occhio nel retrovisore non dico che ti impedisca, ma comunque ti condiziona una visuale ampia e totale del cammino che invece ti attende davanti, che è quello che conta, perché è sempre il futuro che conta. Io credo che questo genere di passato, prima ci si metteva una pietra su e meglio era per tutti. Evidentemente ciascuno è libero di pensarla anche in maniera diversa, ma non puoi di non accettare anche le sentenze e non soltanto le opinioni altrui. Sentiamo Nicola Filippone innanzitutto e il suo Amarcord di giornata, 16 novembre. Sembra ieri. 16 novembre 1963. Finale di Coppa Intercontinentale. Al Maracanã di Rio de Janeiro va in scena la bella tra il Santos e il Milan, guidato da Luis Carniglia. All'andata a San Siro i rossoneri avevano vinto per 4-2, malgrado la presenza in campo di Pelé. Al ritorno in Brasile, assente la perla nera, il Milan aveva iniziato bene portandosi sul 2-0 con Altafini e Mora. Nella ripresa il Santos l'aveva messa in rissa, assecondato dall'arbitro argentino Juan Brozzi, ed era riuscito a segnare 4 reti. Si va così allo spareggio, che si gioca solo 2 giorni dopo e con lo stesso contestatissimo arbitro. E infatti Brozzi assurge nuovamente al ruolo di protagonista, concedendo un rigore dubbio ai brasiliani che viene trasformato da Dalmo. La circostanza fa arrabbiare il capitano rossonero Cesare Maldini, che viene espulso. Al Milan la rimonta non riesce e il Santos può così festeggiare la sua seconda Coppa Intercontinentale dopo quella conquistata l'anno precedente. Scandalo in piena regola, che ricordo bene perché fu una delle prime partite teletrasmesse dalla RAI in ambito di coppe internazionali che riguardassero squadre italiane. Non sapeva ancora il Milan quel 16 novembre 63 che 6 anni più tardi sarebbe stato coinvolto in una battaglia ancora più vergognosa, che era quella dell'Argentina contro la volta che invece poi riuscì a vincere la partita, ma che tornò a casa completamente incerottato e gli andò persino bene. Dopo una visita specialistica dal dottor Campos, Gattuso ha ricevuto l'idoneità definitiva a ricominciare gli allenamenti a tempo pieno e a ritmo serrato, e quindi questa è certamente un'ottima notizia. Franco ha chiamato da Como, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Dica. Io avevo preventivato un intervento più acceso, ma dopo gli ultimi tre, e io intanto la ringrazio perché lei ci dà la possibilità a tutti noi di poter parlare, stando ovviamente nelle righe. Io la volevo ringraziare perché nell'intervento precedente di tre settimane fa lei su Calciopoli ha espresso coerentemente e pacatamente quello che è il suo pensiero, che da anni la contraddice. Le volevo solo fare due piccole segnalazioni. Da lei mi aspettavo sinceramente, ma con affetto le dico, un po' più di avrei gradito più equità quando lei ha parlato riguardante Giraudo, che è il rito abbreviato uguale un'uscita di scena con eleganza. Allora sa, anche la prescrizione per me è uguale a colpevolezza. Poi per quanto riguarda le affermazioni del presidente del CONI di oggi, a me mi sembra Petrucci un po' scalfaro, non ci sto, ma lui ci stava, ci sta. E poi le volevo chiedere, visto che Palazzi ha scritto quello che ha scritto, perché questo non ce lo siamo inventati noi, ma c'è una relazione di Palazzi su terzi che non hanno pagato colpa, è inutile non fare nomi, si parla dell'Inter, si parla del signor Moratti che ieri si è permesso di dire ridicolo ciò che sta facendo la Juventus, e qui giustamente i telespettatori dicono, i radiospettatori, quando si parla di Juventus ci vuole rispetto. Io le chiedo, secondo lei comunque la legittimità e la legalità di un'azione, credo che chiunque in un stato di democrazia, credo che le azioni della Juventus e del presidente Agnelli di oggi siano sia legittime che legali. Io credo di no, perché esiste una giurisdizione sportiva che è quella entro cui queste vicende devono restare, esistono altre giurisdizioni attingendo alle quali si esce dalle regole e si esce dall'accettazione. Un giorno la Juventus forse uscirà dal campionato italiano, io credo, no? Perché se non si riconosce nella giustizia sportiva italiana, nella federazione italiana, che è stata citata per 443 milioni di danni, non so se si rende conto, se quindi, citandola per danni, cosa significa? Significa che la Juventus è convinta che la FIGC e il CONI di conseguenza abbiano agito contro di lei in maniera sleale. Se non accetta più questo tipo di giurisdizione, andrà, delocalizzerà, magari c'è Marchionne dietro a questa strategia, chi lo può dire? Daniele ha chiamato da Ancona, buongiorno. Stavo seguendo con molto piacere le tue parole, scusa, il tuo. Sì, sicuramente la Juve rischia questo, perché dopo 444 milioni di euro di danni alla Federcalcio del calcio, o comunque alla FIGC, se succede che invece perde questo, la FIGC chiede i danni alla Juve, come va a finire? Non so, non ho la minima idea, a me sinceramente ripugna a mettermi su questi sentieri, io vedo che vi state appassionando follemente, a me mi ha stupito molto questa presa durissima, un po' colpito questa posizione durissima di stamattina ufficiale dello sport italiano. Tutte le deduzioni contro le deduzioni, ma soprattutto il rimestare in una storia vecchia e finita 5 anni fa, lo trovo veramente tipicamente nostrano. Giovanni, provincia di Pavia, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, io vorrei dire questo. Come si fa a mettere una pietra sopra dopo, cioè anche c'è stato il successo nel 2006, va bene, sono d'accordo. Però io sono juventino, dopo che è stata condannata in Serie B, secondo me ingiustamente, è impossibile dimenticare. Giustamente il nostro presidente deve chiedere i danni alla federazione, che è anche giusto, giustissimo. Però adesso a dire che noi dobbiamo mettere una pietra sopra è impossibile, perché abbiamo sofferto tantissimo i tifosi di. E allora non mettetela, io che problema, non lo so, uno la mette o non la mette, se chiama me e mi chiede la mia opinione, io gli dico che la pietra sopra ci voleva da 5 anni, che tutto quello che nel frattempo questa difesa di al processo di Napoli, che avrebbe dovuto produrre non so quali bombe clamorose, non so quali svolte epocali, mi pare che abbia prodotto poco, almeno a sensazione e a sentenza dei tribunali, e quindi sinceramente non si capisce che grande strategia sia questa, no? Se non quella di continuare a intorbidare ed avvelenare un mondo che invece, in questo Petrucci ha perfettamente ragione, avrebbe tanto bisogno di serenità, se non altro per rispetto della serenità che manca in altri mondi ben più importanti in cui stiamo vivendo e che rischiano, dove rischiamo di essere travolti da qualcosa di un po' più grave rispetto a una sentenza sportiva. Ma evidentemente c'è chi invece le giuste proporzioni non le riesce a fare, oppure se anche le fa non se ne dà per inteso. Non siamo vicini non siamo lontani dalla conclusione anche di questa puntata. È ufficiale la diagnosi per Burdisso, che ha riportato una grave lesione capsulo legamentosa al ginocchio, e quindi è un peccato vero per questo giocatore e per la Roma, ripeto, che ne dovrà fare a meno per il resto della stagione. Grazie a Roberto Scaltritti in regia, a Franco Piantanida in redazione, appuntamento a domani.